Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. La compagnia Borgo Bonò presenta In ogni caso nessun rimorso. Ispirato all'omonimo romanzo di Pino Cacucci, regia Mauro Pasqualini, con Elisa Proietti, Andrea Sorrentino, Mauro Pasqualini, musiche originali dal vivo di Adele Pardi. Seconda e ultima parte. In ogni caso nessun rimorso. Ci hanno fatto ingoiare così tanta violenza che qualsiasi cosa faremo, anche la più sanguinosa e vigliacca, sarà soltanto una ricompensa insufficiente. Ma tu hai sbagliato lettura! Tu dovevi leggerti Madame Bovary, dati i romanzi da Beatrice, mon petit! Ciao! Ciao! Andiamo a fare un giro. Un giro dove? Per questo bel quartiere addormentato. Cenerentolo. E andiamo. Guarda quella. Bella motocicletta. Vabbè, sarà per la prossima volta. Perché? La sapresti piazzare? È che non so guidarla. Io sì. Sono morto e mi sono reincarnato in un paguro. Maledetta stronza, schiava, serva del padrone. E adesso ho una dritta. Beh, seguiamola. Noi cercare un posto dove poter espandere nostra enterprise, già molto grande mercato russo, leader mercato. Adesso mio avvocato spiegherà gli Italia. Mio cliente vuole investire denaro suo. Ha molto denaro. Per allargare il mercato in territorio Francia, succursale. Ah, signor notaio, noi ha bisogno vostra credenziale. Per capire se noi può fidare. Ah, certo, certo, se deve prendere documenti da... cassaforte? Benissimo, grazie. Benissimo, è molto. Ci vediamo molto presto. Bella moglie, bella figlia, bella padre. Platano, ricordati di far ruotare polsi e caviglie perché non scricchiole, ce la giochiamo sul silenzio. No! Te dico! E chiudi gli occhi qualche secondo per abituarti al... Vomiti! Metti giù quella pistola, testa di cazzo! Ho detto metti giù quella pistola, ho detto metti giù quella... Addio! Era vestito tutto di bianco! Ho pensato è San allora, Pietro! Allora, quella pistola te la devi ficcare su per il culo, va bene? Ma si è pisciato addosso! Si è vista una macchina! Va bene, va bene, quanto abbiamo? Quanto abbiamo fatto, eh? Oh, cazzo! Che hai? Oh, cazzo, no! Perché? Che sai? Oh, cazzo, dobbiamo tornare indietro! Perché? No! Ho lasciato tutto là! Platano! Sì, sì, sì! Platano, dimmi che stai scherzando, Platano! Avremmo dimmi perso circa... Ma porca... 20, una volta, giusto? 50, una volta, giusto? 1000 franc! Io ti odio! Questa qui la diamo al comune di Belleville. Vabbè. Per rifare le strade. Ci fermiamo qua, siamo abbastanza lontani, mi sembra. Quanto abbiamo? 25.000, hai detto? Cristo, fratellino. Che c'è? Bell'anello. L'hai trovato qua? Mi è caduto dal taschino. Vabbè, tienilo. Va bene, allora facciamo 2000 franchi in meno per te, così quando cagherai l'anello li recupererai. Me li spenderò tutti in massa. No, ecco, esatto, vediamo di non fare cazzate. Siamo fermi 15 giorni, così fermi, tranquilli, eh? Pensi che mi farà male quando uscirà? Così capirò che cosa provavi con Sir Arthur, con Don... Ehi, testina di cazzo, stiamo fermi 15 giorni, va bene? Vedi di non buttare tutti quei soldi. Ciao, campione. Si ricomincia da capo. Ma... un'altra volta da zero. Signor Bibacci, sono il commissario Juan. Vorrei scambiare alcune opinioni con lei. Anche con lei, signorina Metragiana. Opinioni, signor commissario? Sembra che le sue siano già fin troppo chiare. Questi non sono i miei metodi. Purtroppo certi colleghi mi hanno preceduto. Un branco di teppisti che cercavano nel barattolo del caffè. I suoi compagni sono andati via poco prima che venissero a perquisire, pura fortuna. Qualche ora di ritardo la questione sarebbe forse risolta definitivamente. Temo di intuire che cosa intende il signor commissario per risolvere definitivamente una questione. Non mi fraintenda, la prego. Se Raymond Cagliamanni e gli altri fossero stati arrestati, in questo momento rischierebbero soltanto una condanna per contraffazione, che è ben diversa dalla ghigliottina. La ghigliottina? A che mi serve la ghigliottina? Al suo stimato prefetto basta ordinare alzo zero e fuoco a volontà. È lo stesso errore che fanno i suoi compagni. Ci considerate tutti uguali, ma non lo siamo. Il prefetto Le Pen è uno scellerato. Gente, come lui rischierà soltanto di far precipitare questo paese nel caos. E nell'anarchia. O non dite sempre così voi? Nel caos e nell'anarchia. Ma cosa ne sapete di cosa chiedono gli anarchici, di come viviamo? Molto più di quanto lei non immagina. Signor Kibacci, che neanche voi siete tutti uguali, lo sa. Prendiamo Raymond Cagliamani. Ma come mai un giovane del suo intelletto è finito col mischiarsi con ladri e ricettatori? Se l'avessi arrestato adesso, gli avrei impedito di continuare. E lei si rende conto certamente di cosa succederà tra non molto? Commissario Joan, per quello che ne so, Raymond Cagliamann non ha commesso alcun crimine. A meno che lei non consideri un crimine essere un militante anarchico. Ma io considero un crimine stampare ad essere falsi della polizia. Documenti, identità, contraffatti o svaligiare uffici postali, per esempio. Di che sta parlando? Sappiamo che li sta parlando. E se aggiungiamo il traffico di automobili e motociclette rubate, Più che un movimento anarchico abbiamo una banda di delinquenti, signor Kibalcik. Io sto solo cercando di capire. Che cosa possono avere da spartire persone che portano la pistola infilata nella cintura e si dedicano al furto con un intellettuale? Un giornalista di fine mestiere come lei. Grazie per il complimento, commissario. Ma Raymond Caillemard non saprebbe neppure avviare una macchina. Figuriamoci se può trafficare in auto rubata. Lui forse no, ma Jules Bonneau sì. Chi? Mai sentito questo nome? Siamo informati della sua presenza in molte riunioni in cui voi avete partecipato. Incontri più o meno pubblici, certo, ma Bonneau non è il tipo da passare inosservato, e meno ancora di lui il suo complice Plan. Senta, signor commissario, alle nostre riunioni può venire chiunque abbia voglia di discutere, diffondere il giornale, non siamo clandestini. Platone ha un soprannome, si chiama Giuseppe Sorrentino. Lui e Bonneau fanno coppia fissa, ben vestiti, grazie alla loro attività. Aria spavalda di... Senta, commissario, si può sapere che cosa vuole da me? Perché sei venuto qui per convincermi a ingrossare le fila dei suoi informatori. Vuol dire che tutti i suoi sforzi di capire non l'hanno portata molto lontano. Io la conosco troppo bene per chiedere una cosa simile. Io volevo soltanto metterla in guardia. Certo. Qualcuno comincerà a usare quelle pistole che per adesso sono soltanto dei pezzi di ferro con cui sentirsi forti e invincibili, e sarà il punto di non ritorno, signor Kibalcik. Non si possono svaligiare case, uffici postali e pretendere di sbandierare ideali di amore e fratellanza. O non è d'accordo con me? Lei, che dedica ogni giorno della sua vita a un'utopia che sta sprofondando nel fango. I criminali, commissario, servono a dare da mangiare ai poliziotti. Lei tende a semplificare un po' troppo le cose. Commissario Joao, il vero motivo per cui non trovo pace in questa mia vita è che non riesco mai a vedere le cose semplicemente. Magari potessi accontentarmi di facili parole d'ordine, di ragionamenti elementari. Tutto è così maledettamente complesso da aggiungere costantemente dubbi a dubbi. C'è una sola cosa semplice in questa vita che ci hanno costretto a vivere. Lei ed io siamo nemici naturali. È libero di non credermi, ma io non mi sento suo nemico. Ma il mestiere che si è scelto la obbliga adesso. Il mio mestiere, esatto, non ha detto che mi pagano per reprimere i delinquenti. Signor Kibalcik, lei non si considera affatto delinquente. Tutti lo siamo, nel momento in cui attacchiamo la proprietà. C'è chi sostiene che vada abolita e chi fa di tutto per appropriarsene. Ma in entrambi i casi da lei si aspettano che reprima gli uni e gli altri. Dunque basterebbe abolire la proprietà? Troppo semplice, commissario, come dice lei. Però basterebbe una maggiore equità per eliminare l'insulto dei pochi che hanno molto e dei molti che non hanno niente. E questo farebbe scomparire la violenza dalla nostra vita. Ma magari, signor Kibalcik, magari. Ma se fosse così, io sarei il primo a mollare il mio mestiere e a schierarmi dalla sua parte. Ma esisteranno sempre individui che subiranno comunque l'attrazione verso la violenza, l'istinto di ribellione, il bisogno di andare contro l'ordine costituito. E temo che in una società giusta, equa, dove tutti avessero la felicità a portata di mano, di individui simili ne sorgerebbero ancor più che in questa iniqua, schizofrenica e per molti versi stupida società capitalista del XX secolo. È davvero strano, commissario, che io e lei su questo punto condividiamo gli stessi dubbi. Però lei dovrebbe averne almeno uno in più. Che senso ha fare il poliziotto se è consapevole che il suo lavoro sarà sempre utile solo ai fini del potere? Perché? Perché non può esistere una società che possa fare a meno dei poliziotti. Anche dopo una rivoluzione, la prima cosa da fare è riorganizzare la polizia. Lei questo lo sa, signor Kibalcik. È la sua intelligenza che le impedisce di essere del tutto utopista. Ma è la mia sensibilità che mi impedirà sempre comunque di essere dalla parte di uno Stato che ha bisogno dei poliziotti per mantenere il potere. Anche a dispetto della mia intelligenza. A dispetto di tutte e di tutti. Il mio destino è di morire come un eretico. Tanto peggio. Vorrà dire che morirò con tutti i miei dubbi. Senza rimpianti. Ma con una sola certezza. Di non essere mai stato dalla parte dell'orrore, del sopruso e degli oppressori, qualunque sia il colore o l'ideologia che li hanno. Va bene, posso capirlo. Era figlio di un operaio. Era in braccio a suo padre quando hanno aperto il fuoco dai cancelli della fabbrica. La stessa pallottola ha ammazzato anche suo padre. Io non porto mai armi, mai. Non basta, commissario Schwartz. No, non basta, signor Kibalcik. Bonneau, ha detto così, lo conosci? Sì e no. I legalisti. Chi? Victor, hai capito perfettamente. Bono e quel suo amico Platano sono compagni, sì o no? Sì, nel senso non li conosco. Ma li ho visti. Bono soprattutto. Lui sembra sincero. E ma all'aria di un disperato. Sono passate con gli illegalisti. In giro dicono che di cose illegali ne fanno già abbastanza. Dicono che rubino automobili per poi rivenderle. Non mi sembra un granché rivoluzionario come attività. Dipende. Voglio dire che a loro modo magari finanziano il movimento, Victor. Beh, non mi sembra il modo migliore. Lo sai perfettamente da solo, le sovvenzioni non ci basterebbero mai a tenere in piedi il giornale e a sfamare le famiglie. Quello che so è che è come una frana. Ed io non sono riuscito a fermarla. Questa è l'unica cosa che so. Victor. Victor! Grazie, vorrei rimanere un po' da solo. Era un parente stretto? Come? Era un parente stretto? Sì. No, era un amico di mio padre. Mi ha cresciuto come se fossi un figlio. Sono contenta che finalmente qualcuno sia venuto a prendersi cura di questa tomba. Non era mai venuto nessuno. È la più vecchia del cimitero. Era già qui quando siamo arrivati. Siamo? Sì, io e mio marito. Sono la moglie del custode. Ah, se quando ha finito vuole lavarsi le mani, può venire in casa. Grazie. Lasciali guardare. Monsieur, dopo te io il champagne, pour moi la mademoiselle. Ancora champagne. Ancora sì. Ecco la vostra bottiglia di champagne. È il conto, signora. Cosa mi hai portato? Il conto. Tu il conto lo porti quando lo dico io. E adesso mi porti altre due bottiglie di champagne e caviale, s'il te plaît. Sì, signora. Ragazzo, come hai detto? Sì, signore. Ancora? Sì, signore. Ancora? Sì, signore. Ragazzo, vieni qui. Vieni qui. Queste qui sono per te. Grazie, vai! Senti! Uomo generoso, ma perché io e te non andiamo in camera a farci un bel bagno caldo? Se ci arrivo... Oh! Un bel bagno caldo per il signore! Com'è che si dice? Puttana bagnata, puttana fortunata! Eccolo qua il nostro re in mezzo a noi. Io ti benedico, puttana, per tu stai ferma, per tutti i tuoi peccati. Stai ferma! Ferma! Zitta, puttana! Zoppa le sette! Zitta! Sei molto bello quando ti arrabbi. Ma che vuoi? Ah sì? Nessuno urla Chanel in questo modo, capito? Nessuno! Dai, lascialo stare! Non lo lascio completamente senza soldi questo maiale pervertito! Ma è un poveraccio! Poveraccio un corno, hai visto quanti soldi che aveva? Avevo un reggiseno pieno di banconote da 100! Ma lasciagli qualcosa! Ma sicuro con quanti la prendo con gli interessi! Chanel è diventata ricca, dai. Stasera e va a ballare la cucaraccia! Sei una stronza! Puttana! Sai che novità! E questi me li prendo io! E questi? Tutto no. Questo te lo tieni te. Ci ogni dare? No, tu. Io non ce la facevo più, pensavo che dovessi rompere adesso. Tuo marito, tuo marito. Sa tutto, non c'è più bisogno di spiegare. Judy, sì. Non dovrei più trascorrere altre notti alla finestra. Il colpo è andato bene. Partiamo! No, non ho niente, promessa. No, non è una promessa, ce ne andiamo per sempre. E non da morti di fame, da emigranti con un biglietto di terza classe sul ponte di un piroscafo e una coperta in testa. No, Judy, l'Argentina è una terra che offre tutto a chi può permettersi di investire. La Pampa, dicono che sia come guardare all'infinito, che non riesce a vederne la fine. Steppa verde a perdita d'occhio. Solo in un posto simile ci si può sentire davvero liberi. Allora sei disposto a dimenticare tutto? Niente più anarchici? Sì. No. No, sì. No. Tu non puoi vivere coltivando i campi, allevando vacche, pecore. Per un po'. Che si fa quando ti viene la voglia di vedere che cosa c'è oltre la pampa? Ci rimettiamo in marcia, Judy, che altro puoi fare? E comunque laggiù c'è pieno di gente interessante, pieno di compagni, sì, italiani soprattutto. Ah, non mi piacciono gli italiani. A te non piace Platano, gli italiani non c'entrano. D'accordo, Platano è l'unico italiano che conosco e non mi piace. È il migliore amico che ho. Non è il migliore, Giù, è l'unico. È molto più che un amico, è un complice. Quando si condivide il rischio di finire ammazzati, si crea un legame molto più forte di qualsiasi vincolo di sangue o amicizia. È una cosa che non puoi neanche spiegare a parole. La senti se c'è, non puoi fare nulla per crearla se non c'è. Dai, portami via. Hai deciso, no? E allora partiamo! Dai, Giù, domani! Io sono pronta! Guarda, guarda, guarda Giù! L'Argentina! Aspetta, devo parlare con Platano, glielo devo. Poi se non vuole capire gli dirò addio per sempre, ma non posso mollarlo così, non posso, mi capisci? Senti, davvero credimi, una settimana al massimo e saremo in mare a guardare con tutti questi vecchi vestiti, a guardare questa terra maledetta allontanarsi all'orizzonte. Thank you. Savons mon pas la tête, c'est bien net. L'amour c'est bête, quand ce petit bouquet rond, c'est jamais que l'amourette, les soupirlites, les soupirlites. Il y en a qui se mettent sa famille, et qui se dorment. Sono io. Ho bisogno di parlare con Giulio. È una faccenda piuttosto urgente. Può dirgli di scendere un attimo? La signora Toyon. Gran belle tette. Sono sola in casa. Se ti vuoi accomodare. Ti posso offrire un tè mentre aspetti? Grazie. Signora Toyon. Ma se mi è consentito scegliere, preferirei un cognac. Un cognac? Scalda di più. Signora Toyon. Non mi piace come lo dici. Come dico cosa? Il tuo modo di pronunciare la parola signora. Sono convinta che se tu dicessi puttana ci metteresti un po' meno volgarità. Ma ti sbagli, bella signora. Io lo dico con invidia. Capisci cosa intendo? Pura invidia. Sei tu che ti stai sbagliando. Non eri venuto per cercare Jules? Perché se non hai la pazienza di aspettarlo, puoi sempre andare a farti un bel giro tra le tombe, che il fresco aiuta a ragionare. Io non sono il passatempo della casa. Un gran bel giro tra le tombe, perché no? Così mi trovo un posticino per l'avvenire, perché bisogna essere previdente, vero signora Toyon? O forse farei meglio a chiedere a tuo marito per tutto quello che riguarda i lumini, le tombe, il prezzo dei fiori. Platano, se non la smetti ci finisci molto presto laggiù. È una minaccia? Ti prego, parlo sul serio, mi riferisco a quello che fate tu e... Cristo, signora Toyon! Questo sì che scalda! Beh, in mancanza di meglio, voglio dire. Adesso basta con questo gioco idiota! Mi volevi trattare da puttana per dimostrare a Jules non so che cosa. Benissimo, ci hai provato, adesso basta. Cosa vuoi da lui? Te lo chiedo per favore. Cosa voglio io? Senti, bella, non fregarmi le domande. Sei tu che devi spiegare a me. Che cazzo vuoi? Certo. Posso capire che hai tutti gli argomenti in regola per tenerla al guinzaglio tutto il tempo che vuoi, ma non farti illusione. Tu non riuscirai a separarci. Non provarci neppure. Io non ho nessun bisogno di separarvi, è lui che non ne può più. E... Satano, vi ammazzano se non vi fermate. Vi uccidono come due bestie in mezzo ad una strada. Può darsi. L'idea non mi dispiace affatto. Noi non moriremo in un letto. Con la bava alla bocca e il catarro in gola, maledicendo la vita, rimpiangendo gli anni migliori, noi non ci abbasseremo a chiedere la pietà di un nipote o l'attenzione di un figlio. No, Judy! Tu dovevi saperlo fin dal primo momento. Tu non puoi separarci. È il suo destino. Il nostro. E tu ne sei esclusa. Non ne sarei così sicura. Tra me e te, Jules, l'ha già scelto e lo sai. Sei tu che non puoi più cambiare le cose. Platano, sei tu! Ma per poco non ti spero... Ma che cazzo ci fai? Eravamo d'accordo che ti avrei cercato io. Oh beh sì, certo, ma ci sarebbe una cosuccia piuttosto urgente da discutere, ti dispiace. Tombe! Tombe! Tombe! Ma proprio la moglie di un benchino ti dovevi trovare. Sono un tenebroso. Sei sempre stato un tenebrosone. Che cosa stavi dicendo, Judy? Ma niente, le ho chiesto se la dava un po' anche a me. Così, per rimanere in famiglia. Ma non ti preoccupare, pare che tu abbia l'esclusiva. Ma lo sai che c'ha proprio un gran bel paio di tette, la signora Toyomi? Ma io certe cose non le capirò mai, ma che diavolo gliel'ha fatto fare di mettersi col becchino? Ma certo, ma la cosa gioca tutta a suo favore. Perché con quel cesso di marito, ma per forza che gli è caduta tra le braccia come una bella. Stai esagerando, Platano. Per carità, fratellino, discorso chiuso e archiviato, non si può parlare delle tette della signora Toyomi? E meno male che non ho detto niente del culo, perché quello da solo è la prova dell'esistenza di Dio! Te l'ho chiesto per favore! Ma io parlo di un Dio buono, giusto? Un creatore! Filiamoci. E di corsa. Ci è mancato tanto così, due sbirri sotto casa, aspettavano me, hanno già trovato il magazzino... Non sto capendo un cazzo, di quale casa parli? Ah, non perdiamo altro tempo, è già un miracolo che non siano qui! Perché dovrebbero arrivare a me? Ma che cazzo vuoi che ci trovino a mettere questo... a trovare questa merda di cimitero? E io te l'avevo detto, per Dio, che dovevamo muoverci! Non lasciargli il tempo di fare i loro strapazzuti! Se passa la voce e non cercare scuse! Scuse? Benissimo. Io vengo qui, rischio la vita per te. Vuoi rimanere con questa qui? A goderti gli ultimi momenti? Va! Godi! Io me ne vado. E se la trovano con te, che cosa le succede alla signora Judy Toyon Imbono? Lascio i soldi qui. Aspetta! Nascondili bene, aspetta qualche giorno. Se dovessero venire, tu non mi vedi da almeno 2 settimane. E mi conoscevi con un altro nome, a te non possono fare niente. No, guardami! Qualunque cosa succeda, prendi tutti i soldi e parti per le Avre, ma senza bagagli. Se ti pedinano, non devono capire che te ne vai per sempre. Poi cerca la poi cerca l'abbazia di Santo Lore. E ogni giorno, tra le 11 e mezzogiorno, ci passi davanti, ma non ti fermare. Se no capiscono che ci incontreremo là. Quando arriverò io ti seguirò dall'abbazia, se tutto andrà bene... Vedrai, non ci vorrà molto, anzi è possibile che arrivi là prima di te. Hai capito tutto? Abbazia di Santo Lorenzo alle 11 e mezzogiorno. Anarchici, una volta li chiamavi compagni. Una volta ero solo un fesso, un idiota, con la testa piena di stronzate. In due, dai, basta e avanti. Io andrei a Chasseleroi. Magari riusciamo a piazzare sta macchina. Sì, perché no? Ma io la tirerei fino alla costa atlantica. Laggiù è pieno di troie di lusso, auto nuove di zecca che te le tirano dietro appena ne esce una nuova. Una macchina! Io mi fermo in Francia, questo dovreste averlo già capito da un pezzo, no? Ah no? E dove sono? Io in Argentina, Judy viene con me. Bravo. Fai benissimo. Vai a mettere su un bel gregge di pecore. Una famiglia felice in una terra vergine avevi bisogno di un coglione qualsiasi per raggranellare i soldi. E adesso che il capitale ce l'hai, buon Dio! No, Platano! Cristo! Senti, sai meglio di me che questa storia non dura. Vieni via anche tu, Platano, siamo ancora in tempo. Te l'ho già detto, Jules. Vaffanculo, tu e la tua Jules. Ma perché diavolo non vuoi capire? È finita, lo capisci? Prima ogni azione aveva un senso preciso. Volevamo colpirli per dimostrare che non erano invulnerabili, che qualcosa si poteva fare. Ma è cambiato forse qualcosa, eh? Mi vuoi rispondere? Dobbiamo farla tutta a 30 all'ora. La macchina è vecchia, meglio non sforzarla. Ah, Cristo, fratellino! Se fosse per me ci fermeremo nel primo locale a scolarci un paio di sì, birre. Sì, però io mi sento proprio fregato, vorrei capire che cavolo è successo. Che c'è? Cos'è che non hai capito? Cos'è che ti rode? Un mucchio di cose! E l'unica cosa certa è che sei riuscito a farmi piantare tutte, per questo che sei così contento. Ma vaffanculo, io vengo qui, ti salvo la vita e tu che fai? Dai la colpa a me, bravo, bello stronzo per davvero! Io non ho nessuna colpa, io non dico che l'hai fatta apposta, dico che l'hai fatta e basta! Ma ho fatto cosa? No! Cristo! L'avevo detto che non bisognava spingerla così tanto. Adesso dovrò aspettare che si raffreddi, poi proverò a regolare i bilanci. Va bene, aiutami a togliere il cofano, forse siamo ancora in tempo, dai. Divertiti. Io vado a cercare un posto per la notte. Grazie, eh. Prego. Tu vai pure a fare il pecoraio in Argentina. Ma non con i miei soldi. Che vuoi dire? Proprio non lo senti che parla. Senti. Sta andando tutto storto. Se ti va di scherzare, eh? Tu la notte vai a frugare dove non dovresti. Si può sapere di che cazzo stai parlando? Dei 10.000 franchi che mancano dalle mie tasche. Ne sai qualcosa? Vabbè, tu sei pazzo. Tu hai dei problemi nel cervello, i grossi, mi sa. Già. Io sono pazzo, no? E se uno è pazzo, non c'è da perdere tempo a discutere. Tu stai cercando una scusa, lo so, ma hai scelto la più schifosa e più lercia di tutte. Come puoi venire a raccontare che ti mancano i soldi a me? Ce lo dici a me? E a chi? Dai. C'è forse qualche altro stronzo qui intorno? C'è qualche altro stronzo? Figlio di puttana, capace di... Platano. Ammazzare un amico! Platano, basta! Commissario, venga, l'ho appena rimesso in fresco. In ogni caso nessun rimorso. Il socio che gli ha sparato l'ha preso proprio alla lettera? Perché gli ha sparato un complice, non è vero? Così sembra. Venga. Prima rubano e poi si ammazzano tra di loro. Se non altro c'è una carogna di meno in giro. Ah, ho sentito dire che non si tratta di delinquenti comuni, anarchici, non è vero? Tanto sono tutti criminali, altro che la società della rivoluzione, l'avvenire. Grazie, dottoressa, io ho finito. Bene, un altro bel regalo per gli studenti di anatomia. Marie, contatta subito quelli del distretto di Lione e fatti mandare tutte le fotografie dell'automobile ritrovata a fianco al cadavere di Giuseppe Sorrentino. E... bel vestito. Appena arrivano mandami in ufficio, Marie, è urgente. Commissario Giovanna, un momento. Vuole spiegarmi che sta succedendo? A cosa si riferisce? Non si era detto di aspettare un'occasione di una certa rilevanza? Perché tutte queste perquisizioni inconcludenti? E chi diavolo ha avviato un'operazione così scalcagnata, utile solo a metterli sull'avviso? La polizia di Lione agita in autonomia, signor Ghisciardo. Questo l'ho capito. Ma lei avrebbe dovuto mettersi in contatto con quei rinoceronti e impedire loro di fracassare la cristalleria. Ma avevano tutti gli elementi per... Ma di che accidenti sta parlando? Noi abbiamo la priorità assoluta. Lei doveva farmelo sapere in 2 ore. Dico 2 ore le avrei fornito un ordine scritto dal ministro, autorizzandola a prendere il comando delle operazioni. E riguardo a quell'italiano, è la persona giusta? Sì, è Platano, il complice di Jules Bonnot. Innanzitutto convochi una conferenza stampa e scriva un articolo che susciti il dovuto clamore. Gli anarchici si ammazzano tra di loro al momento di spartire il bottino. Un buon inizio. Signore, la traiettoria del proiettile è quasi verticale, dal basso verso l'alto. La palla è rimasta nella scatola cranica senza quasi ledere il cervello. E quindi? Sembra si sia trattato di un incidente. È difficile pensare che si possa sparare un uomo tenendo la pistola in quella posizione. Intende dire che il colpo è partito mentre quel platano si limava le unghie? No. Senta, commissario, non ce ne deve fregare niente di traiettorie del proiettile o posizione della pistola. Comandante, sono È chiaro? Mi permetta. Mettere le mani su una banda di anarchici illegalisti è, senz'altro, un buon risultato. Ma non è questo che vi viene chiesto con insistenza. Togliere di mezzo qualche rapinatore e magari potenziale assassino non risolve certo il problema. Non è la polizia che può risolvere il vero problema. Il nostro problema, commissario Juan, è assicurare alla giustizia i nemici dell'ordine costituito. Ladri, assassini, saranno sempre in sovrabbondanza. E il sistema ha imparato a conviverci. Ma non può convivere con coloro che compiono gli stessi reati in nome di vagheggiate forme di giustizia sociale che si risolvono immancabilmente in violenza e disordine. Se noi arrestiamo un anarchico perché ha svaligiato una villa, una fetta considerevole dell'opinione pubblica lo vedrà soltanto come un poveraccio che cercava di prendersi una parte della ricchezza a lui negata. Ma se noi lo arrestiamo quando ha ammazzato un povero padre di famiglia, colpevole soltanto di indossare una divisa o di aver intralciato loro il passo, allora, commissario Juan, gli anarchici sono solo dei delinquenti. Ecco che cosa mi viene chiesto con insistenza. Niente di più e niente di meno. E ora vado a scrivere l'articolo per i giornalisti. Buongiorno, commissario Juan. Mirai, prepara la matrice. L'articolo è pronto. Victor, eccolo qua. Oh, Victor, leggi qua. Assassinato a colpi d'arma da fuoco dal complice. Il corpo dell'anarchico Giuseppe Sorrentino è stato ritrovato a pochi chilometri dalla capitale. A giustiziarlo il complice Jules Bonneau, non soddisfatto della sua parte di refurtiva è un disastro. Noi ora cosa scriviamo su una cosa così? Non lo so, ma comunque sia realmente andata, è chiaro che siamo di fronte a un suicidio collettivo. Hai letto di quel platano? Sì. E hai idea di che fine abbia fatto l'uomo che l'ha ucciso? Non crederai sia andata veramente così. E che posso saperne? Ma è una brutta storia, orrenda. Per Dio, non so quante volte ti ho sentito ripetere che non bisogna mai fidarsi della stampa. Non dicevi sempre così? Sì, d'accordo, ma resta pur sempre il fatto che un compagno ne ha ucciso un altro. Come faremo a giustificare un'azione del genere? E di che ti preoccupi tu? Tanto è un pezzo che sprechi carta e inchiostro per attaccarci. No, Remo, non puoi risolvere la questione in questo modo. Lo sai benissimo che io non attacco i compagni, ma ho il dovere di criticare le scelte suicide. E non mi sono mai sentito così impotente. Ma per favore, con quello che succede in giro tu perdi tempo a criticarci. Ma non lo capisci che ti stai mettendo dalla loro parte così? No, questo no. Io mettermi dalla parte di un governo che fa di tutto per metterci l'uno contro l'altro. E poi quando dici criticarci, a chi diavolo ti riferisci? Remo, mettiti a sedere, prepara un caffè. No, grazie, io me ne vado. Ma sei appena arrivato. No, sono venuto a dirti di piantarla. Perché se scrivete altre scemenze sull'illegalismo ve ne assumerete tutte le responsabilità. Io non vado più per i tetti di Bruxelles e tu non distribuisci più volantini per le sartorie. Già, però tu sei rimasto lo stesso cocciuto di allora. Neanche tu sei cambiato. E che ci facevi sui tetti di Bruxelles? Ci sono momenti in cui continuare a vivere è troppo difficile. E sui sedili di legno della metropolitana, gli occhi di Jules continuavano a rivedere quella pallottola che gli aveva portato via tutto ciò che era stato fatto fino a quel giorno. In quei momenti l'unica cosa da fare è trovarsi un pensiero felice a cui ancorarsi nella speranza che ci possa riportare all'arco e poi riprendere il mare. E per Jules, quel pensiero è quello di quando rivedrà Judy al porto di Le Havre. E il loro viaggio senza ritorno verso l'Argentina. Il giornale gli cade di mano. E mentre vola verso il pavimento, per un attimo il cuore gli si ferma. E le budella si annodano in un unico grumo pulsante. Il giornale arriva a terra bagnandosi dell'urina che cola dai pantaloni di Jules. E il titolo di testata bene in mostra. Presa L'amante di Jules Bonneau. In carcere la signora Toglion. E a me non ci pensi? Vattene, Platano. Gran bella amica. No, non incolpare me, Platano, non mi incolpare per una cosa che hai fatto tu. Questa la voglio sentire. A te non bastava avere tutto e poter andare avanti? Neanche a te bastava. No. Coglione. Io volevo qualcosa di più, io volevo un po' di pace con te. Questo non l'hai capito, eh? Adesso è colpa mia. Per te avere Giudì in più era troppo, eh? Avevamo tutto, l'hai detto tu. Avevamo tutto. Sì. Avevamo tutto. E tu sei voluto impazzire. Avevo anche un amico e una donna. Una donna? Sì. Perché sei impazzito? Una donna. Ma lo sai quante donne possiamo avere io e te? Possiamo avere tutte le donne che vogliamo, una donna, ma perché sei impazzito? Ah, io sono impazzito, Platano? Sì. Tu sei un genio, lo sai. Tanto da rubarmi i soldi. Perché i soldi me li hai rubati. È di questo che mi incolpi? 10.000 franchi. È di questo che mi hai incolpato? Per 10.000 franchi che mi hai rubato. No, Platano. Per 10.000 franchi mi hai ammazzato. La verità è un'altra. Se fossi un uomo ti ammazzeresti adesso. Quei 10.000 franchi. Ammazza! La verità è un'altra. Ammazza! 10.000 franchi li hai spesi perché non avevi niente da fare. Perché per te la vita non è niente. Per te la vita è spendere soldi, andare a puttane e ridere, ridere. Io stavo costruendo qualcosa. E questo per te è un dolore, perché io avevo qualcosa in più che tu non hai mai avuto. L'amore di una persona. Amare qualcuno ed essere amato, tu non l'hai mai provato, ammettilo, eh? Tu non l'ammetterai mai perché... perché non lo permetterai mai. Cristo! Li avevamo fottuti un'altra volta. Un'altra volta ancora. Nessuno poteva fermarci, nessuno. Basta. C'era una sola cosa da fare adesso. Essere lucidi. Togliere ogni timore, ogni paura, ogni ansia. E eliminare tutto e andare avanti. Era finita. Dobbiamo muovere l'azione esemplare, Octavio! Li hai sentiti, ma non sono pronti! No, non possiamo più aspettare! La gente è sempre più vessata! La polizia fa di tutto per farci passare come criminali! E per quanta storia allora... possa sembrare, persino persone come Victor, come Riletta, hanno finito per credere! Per questo che dobbiamo convincerli, no, quindi adesso... quello che dobbiamo fare è dimostrare a tutti che agire è possibile, che c'è ancora una speranza, ma per farlo dobbiamo essere disposti a tutto! Io lo sono! Ramon Cagliemano! Dieudonné mi ha parlato di voi, alla vostra azione esemplare. Al 156 di Rue Ordinaire, che è una succursale della Société Générale, la banca centrale francese. Ogni mattina un portavalori porta denaro contante. A accompagnarlo c'è una sola guardia armata. Con una macchina rubata noi entriamo nella via e ci fermiamo poco prima della banca. Remo, tu scendi per tenere sotto controllo la strada. Quando li vedi arrivare ci fai il segnale per agire e ti avvii verso di loro. Octavio, tu gli stai a pochi passi di distanza. Io intanto terrò il motore su di G. Quando li raggiungete, Remon, tu sbatti contro la guardia armata e gli fai trovare la pistola dritta puntata alla testa. Octavio, tu fai lo stesso con i portavalori, ti fai consegnare la borsa, poi tenendoli sotto tiro, entrambi in macchina, io do gas e... Avevamo detto niente, morti inutili! Ma quello lì stava tirando fuori la pistola! E tu potevi sparargli al braccio! Cosa dovevo fare? Aspettare che mi sparasse! Ragazzi, qua dentro ci sono solo titoli! Cosa? Solo titoli, nominali! Se lo sapete cosa vuol dire questo? Che la stampa riderà di noi! No! Che non ci saranno i fondi per i manifestanti, per le famiglie degli scioperati, per tutti quanti saremo soltanto una banda di criminali! Remon! Capace soltanto di prendersi i soldi e tenerseli per sé! Non l'abbiamo fatto per diventare ricchi, no! Lo dici sempre anche tu, l'importante è aver cominciato, la prossima volta andrà meglio. Ragazzi, io ho un amico a Amsterdam che forse me li può piazzare. Octav, dici davvero? Se tu riuscissi a piazzare anche soltanto... Io sentiamo a Parigi. No. Octav, tu hai 5 giorni per piazzare i titoli, poi ci rivediamo tutti quanti a Parigi quando le acque saranno ormai placate. Sì, okay, dai. Sì. Ragazzi! Lo conoscete Cuvier? No. Chi è? Cuvier è uno scienziato che a partire da una tibia è riuscito a ricostruire un intero dinosauro. Noi, a partire da questi resti di esseri umani che ci circondano, riusciremo a creare una nuova società. Lasciamo la macchina qui. Almeno pensano che siamo partiti per l'Argentina. E addio la scienza. Bonneau. Senti, era da un po' che te lo volevo domandare. Io non ho mai creduto alla versione dei giornali. La storia di Platano è stato un incidente. Era il migliore. Non ce ne sarà più un altro come lui. Grazie. Dai, ci vediamo a Parigi. Sì. Signor. Signor Kibalcik, i numeri di matricola delle due pistole ritrovate nel vostro appartamento vi leggono alla rapina in Rue Ordene. Qualcosa da dire in proposito? Che mi ero sbagliato sul suo corpo. Se lo ricorda quel discorso sui poliziotti che non sono tutti uguali, come stare Juan? Che cosa si aspetta da me? Che almeno non si accanisca sulla signorina Metrajan. Ma la signorina Metrajan è l'intestataria dell'appartamento, non posso rilasciarla. E allora, dato che ci siamo soltanto io e lei, mi aspetto un minimo di onestà. Si spieghi. Chi ha messo le due pistole dietro al mobile? Io no. Benissimo. Lei non le ha mai viste. Noi neppure. Quindi? Non c'è più alcuna via d'uscita, signor Kibalcik. Io, Octave Garnier, dichiaro che... Scrivi! Scrivi! Alla rapina in Rue Ordene eravamo in tre, Eugenio Donné non c'entra niente. Stai fermo! E siete solo dei pezzenti bastardi vigliacchi e... Ebbene, dovete andare tutti a fanculo! Io, Raymond Caillemin, dichiaro di essere l'unico responsabile della rapina in Rue Ordene insieme a Octave Garnier e Jules Bonneau. Pertanto chiedo che liberiate Eugène Dieudonné, che è stato arrestato giustamente. Con disprezzo, Raymond Lafiance. Lo voglio sulla prima pagina del vostro stupido giornale. Alla polizia di Lione sapete arrestare soltanto gente innocente che non sa come reagire, noi sì. E Eugène Dieudonné non c'entra niente. Julie Toglion è una fitta camera. Chi invece conosciamo bene sono le vostre care amiche spie. Cambiato idea! Non siete solo dei pezzenti bastardi vigliacchi. Potete aggiungere tutti gli interi che vi pare alla taglia, a noi non ce ne frega un cazzo. Perché noi siamo... Perché voi... A vaffanculo! Il 24 marzo del 1912 una macchina entrò nella piazza centrale di Chantilly. La piazza era gremita di gente, ragazzini in bicicletta, avvocati con le loro 24 ore. L'automobile entrò a passo d'uomo. I freni fischiarono esattamente davanti all'ingresso della banca centrale francese, Société Générale. Da sotto lo sportello destro i mocassini neri di Rouen. Dall'altro lato un cappello nero. E i quattro si avviarono verso l'ingresso della banca sotto la bandiera blu, bianca e rossa dello Stato francese. Dentro la macchina un uomo, Jules Bonneau, col motore acceso pronto a partire. Una mano sul volante e una sulla sua brava. A pochi passi dall'ingresso, il più giovane di loro, Sodi, con un impermeabile di caucciù al braccio, si fermò ad osservare quella graziosa piazza. La porta girò una, due, quattro volte all'interno. 12 interminabili file di persone in diligente attesa di fronte agli sportelli. E la nuca pelata di un uomo che risplendeva sotto la luce del gigantesco lampadario. Dietro all'interminabile bancone 12 bancari in gilet, papillon e cappello elegantissimi. Alle loro spalle l'enorme portellone del cavò. I quattro lunghi cappotti neri si aprirono. Mani in alto, questa è una rapina! L'intera banca si voltò verso di loro. Da sotto i cappotti, Browning, Magnum, Colt. Una donna si mise ad urlare. Un'altra svenne. Da dietro una colonna di marmo spuntò una guardia che non avevano visto. Che non doveva essere lì. Che esplose un colpo e partì. Passò sopra le teste di tutti i presenti, sfiorò l'orecchio di Monier. E si andò a piantare contro l'orologio che segnava le 12 in punto. La pistola di Octava fu la prima a vuotare il caricatore. Partirono proiettili in tutte le direzioni. Un impiegato che tentava la fuga venne colpito da una spada. Il lampadario esplose in mille pezzi. E una signora che si parava dietro la borsetta dove portava il mutuo della casa che sognava da una vita venne colpita al fianco. I documenti volarono in aria come coriandoli macchiati di sangue. Octave, coperto da Monier, corse verso il bancone. Lo superò diretto verso il cavò, ma un cassiere gli si parò davanti. Monier lo vide, prese il Winchester. Il cervello esplose a pochi metri dal cavò. Dentro c'era Octave che riempiva i sacchi di monete, banconote, lingotti d'oro. E ogni volta che ne riempiva uno lo lanciava a René. Ne poteva sentire il peso di tutti, 49.000 franchi. Fuori, la folla richiamata dal rumore si accalcava all'ingresso della banca. E Sodi, che era a fare il palo, sfoderò da sotto l'impermeabile Winchester. Sparò un colpo in aria. Ora fermi tutti o sparo nel mucchio. I quattro lanciarono i soldi in macchina. E poi Sodi. Giù mise la prima, la seconda e partì. Dal fondo della piazza spuntavano già le macchine della polizia. Un poliziotto in bicicletta che si dirigeva verso la banca frenò in mezzo alla strada. sparò un colpo verso l'automobile che lo travolse, mandando la bicicletta a finire sopra un albero. Da Rufassà spuntò un carro che si parò davanti alla macchina. Giul stesso da un lato. Le due ruote si sollevarono da terra. Raymond fu colpito ad una spalla dal finestrino. Monier fu lanciato sul marciapiede. L'automobile si capottò. Dall'urlo di "Vediamoci!" i sei si separarono tutti in direzione diversa. Giul sentì una fitta al fianco. Una macchia di sangue si espandeva sulla camicia. Alzò lo sguardo e vide Raymond infilarsi in mezzo ai vicoli. Octave saltare al di là di un cancello. Gli altri erano già spariti tra le vie di Chantilly. Ognuno per sé. Piano. No, non è niente. Non è Cristo! Vai là. E pure un febbrone. Dubois, ho bisogno di solo di due ore. Un paio di ore, giusto il tempo di riprendere le forze e poi ti... Vai di sopra e mettiti a letto. Prendo delle calze e arrivo. Dubois. Vai. Dubois! Esci fuori con le mani in alto! Ma che si fa così? Dubois, la casa è circondata, esci fuori! Ma va bene! Va bene! Vengo! Vengo! Ma che si fa così? Prima si spara e poi si dice di alzare le mani! E allora per Dio! Correva sul prato fino alla mano ancora tremante del gendarme nascosto dietro all'albero. Un albero. Due. Dieci. Cinquanta. Una foresta che circondava l'intera valle. E dietro ad ogni albero lo scintillio del ferro delle armi. Esercito. Compagnia della Guardia Repubblicana. Pompieri armati di asce. Contadini coi forconi. Il capo della polizia francese, Guichard, e al suo seguito centinaia e centinaia di gendarmi, notai, contabili, tutti uniti da un'unica passione: la caccia. Le pareti, come di burro, crivellate dai colpi sparati da dietro agli alberi, e dentro la casa un cadavere. E Jules, con le due Browning in mano, che sparano contro il cielo a ricordare che lui è ancora lì, vivo e resiste. Il capo della polizia guardò la miccia, prese un fiammifero e... La miccia si accese e subito cominciò a correre attraverso la valle. Urla di gioia e stupore si alzarono da dietro agli alberi, ma presto sembrò rallentare, quasi spegnersi. E si potevano sentire i cuori di 500 persone fermarsi nella speranza di vedere la casa esplodere in schegge e in polvere. Nel cielo non c'era più un uccello, neanche un insetto nell'aria. I cani avevano smesso di abbaiare. L'onda d'urto spostò l'aria intorno, piegò la cima degli alberi e percorse 15 chilometri fino a Jardin de Plain, Jardin de Luxembourg e Notre Dame, dove, per il tremore, l'unghia di un gargoyle si inclinò e

tragica, un ruolo comico e viceversa. Io credo molto in questa cosa, credo che il teatro si basi su un rapporto di intesa tra il regista, addirittura l'autore e gli attori. Le grandi esperienze teatrali, penso a Shakespeare, penso a Molière, ma più vicino a noi penso agli attori di Strehler al Piccolo, o all'esperienza della Compagnia dei Giovani, o ancora quella di Squarsina con il Teatro di Genova. Il teatro è sempre stato un gruppo fisso per cui si pensavano gli spettacoli, quindi io credo molto in questa cosa. Ora i teatri nazionali la fanno molto poco, ma io rimango convinto pur nel mio isolamento. E allora ricordiamo lo spettacolo Salomè di Oscar Wilde, in scena a Roma al Teatro Eliseo dall'11 al 23 dicembre. Un saluto e un ringraziamento a Luca De Fusco, che ne cura adattamento e regia. Un saluto, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Arrivederci, grazie. Con l'autrice e attrice Alessandra Magrini per parlare di un suo progetto dal titolo Jazz Reading, in due momenti: laboratorio giovedì 20 dicembre e spettacolo sabato 22 dicembre. Alessandra, ben trovata. Ciao, ciao a tutte e a tutti, ben trovata a te Federico. Ce ne parli? Sì, cerco di essere insomma più concisa possibile. Giovedì 20 dicembre all'Università di Roma 3, abbiamo Ostiense 139, dentro l'aula dove c'è lo sportello legale di FRO, che è un'associazione appunto diritti di frontiera, si terrà il laboratorio. E si tratta di un evento gratuito, un laboratorio di musica, parole, corpo e autonarrazione attraverso l'improvvisazione teatrale. È un laboratorio aperto a tutte le realtà migranti che hanno attraversato questo sportello, questo spazio così direi rivoluzionario, perché di FRO è un'associazione che è stata fondata nel 2013 da un gruppo di studenti e ex studenti del corso sperimentale di clinica legale del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza, che è attivo appunto presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma, di Roma 3, con l'obiettivo di promuovere la tutela dei diritti e l'accesso alla giustizia dei migranti. Io ci sono stata per documentarmi, appunto sono passata a trovarli e veramente ho assistito a un livello diverso, un livello che vorrei ci fosse sempre. Purtroppo sono veramente gocce nell'oceano queste esperienze, quindi vanno sicuramente valorizzate, e tento di farlo anche mettendole in connessione con questo reading, che è appunto, come hai detto tu, jazz reading o jazz reading, come preferite, che è arte e diritti sociali nel linguaggio del jazz, perché appunto il jazz è una musica di origine afroamericana che ha rappresentato fin dalle sue origini la condizione dei neri negli Stati Uniti, e soprattutto negli anni 50 e 60 questa musica diviene rappresentativa per delle lotte sociali, dei diritti civili degli afroamericani. Erano lotte che stavano appunto esplodendo in quel periodo, che poi arrivano, no, al periodo delle Black Panthers, eccetera. Per cui mettere in connessione la realtà, quello che è, e l'arte è sempre stata una mia prerogativa. E anche questa volta devo dire grazie al Municipio 8, che ha finanziato e supportato sia il laboratorio che il reading. È possibile renderlo gratuito. So che parteciperanno delle migranti che hanno attraversato lo sportello. Sono molto contenta di invitarvi. Il spettacolo è al Teatro Mongiovino alle ore 21. C'è una pagina Facebook, che la pagina Facebook è Reading Migrante. Reading Migrante Facebook. Ce ne parli un po' di questo spettacolo, come l'hai strutturato? Allora, innanzitutto la collaborazione al testo è di Antonio Carboni, che ormai da tantissimo collabora con me per quello che riguarda le musiche, e questa volta appunto mi ha dato anche una mano con il testo, perché appunto lui è un esperto di musica, soprattutto musica jazz, quindi è stato importantissimo quella che è la sua presenza nel testo. E poi c'è Luca Primo al contrabbasso, Lorenzo, Gianluca Costa alla batteria, devo ringraziare Valerio Nicolosi che ci sta fornendo delle foto meravigliose che ha recuperato sulla Open Arms anche durante i viaggi che l'hanno visto protagonista in tutti i luoghi di resistenza, perché appunto la connessione tra presente e lotte del passato è sempre necessaria, no? Per capire l'oggi. Quindi io credo nel ruolo della memoria attiva, ci ho sempre creduto e continuo a trasmettere questo anche nelle mie opere, in quello che propongo. E poi con Paolo Maggi di Orama Produzioni che ci sta aiutando un po' con i video. E quindi ci sono diverse presenze, un reading di musica, di parole, di immagini che cerca di essere un momento di vita, quindi non una lettura standard un po' ruvida che entra in azione con l'intenzionalità, diciamo con l'espressione cerca di raccontare una storia che purtroppo viviamo tutti i giorni ma che è accaduta tanto tempo fa. E quindi attraverso immagini, questi quadri, ho immaginato 7 quadri, c'è la cornice che sono le lotte, le voci degli afroamericani in lotta, colonizzati dagli europei, e siccome poi dicono, cioè io ci ho tenuto a fare questo reading anche per un motivo, perché io abito al Pigneto e tante volte vedo questi localetti, capito, tutti i jacks, tutti con questi fighetti, con queste poltrone di velluto, tutti i ragazzi, cioè, tutta sta roba, dico ma ci siamo proprio scordati, qua la memoria corta è sempre in agguato, cioè il jazz appunto nasce come reazione, quindi niente, siamo noi che in realtà abbiamo colonizzato tutto, anche la cultura che non ci appartiene, un po' restituire quello che non è nostro. E allora ricordiamo questo appuntamento con Jazz Reading di e con Alessandra Magrini, con 2 appuntamenti, giovedì 20 dicembre il laboratorio all'Università di Roma 3, sabato 22 dicembre lo spettacolo al Teatro Mongiovino. Alessandra, un abbraccio, un in bocca al lupo, i riferimenti ce li hai dati tutti, e a risentirci presto. Grazie Federico per questo spazio e per quello che fai. Ricordate appunto la pagina Facebook e trovate tutte le info su Reading Migrante. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.